GR Europa. Buon pomeriggio da Gigi Donelli. Non si può nascondere la delusione. Come europeisti siamo delusi e non è certamente contento il governo che aveva sostenuto la proposta della Commissione per un incremento del bilancio. Così il ministro per gli affari UE Enzo Moavero, riferendo alla Commissione Esteri, Bilancio e Affari UE di Camera e Senato sull'ultimo vertice, naturalmente sul bilancio. E resta critica in questo senso la posizione del Parlamento sull'accordo raggiunto per i prossimi 7 anni. Molti osservatori si chiedono se questa volta il Parlamento, cosa che non ha mai fatto, riuscirà a modificare gli aspetti più critici contenuti appunto nella decisione. Sentiamo allora Monica Frassoni, presidente del Partito Verde Europeo, ex europarlamentare. Oggi mi sembra che con questa questione del bilancio siamo al di là del posizionamento di politica destra, sinistra, forse progressisti, conservatori. Io non dico che loro reggeranno, però penso che oggi ci siano delle condizioni talmente gravi, cioè quello che ha fatto il Consiglio è talmente grave che anche il fronte conservatore, quindi più vicino ai governi europei, si è in qualche modo svegliato. Dov'è la gravità di quello che ha fatto il Consiglio? Il primo elemento è che per la prima volta abbiamo una riduzione del bilancio e questo in tempi di crisi e considerando che il bilancio comunitario è l'1% scarso del PIL europeo, è già di per sé una cosa grave. La seconda cosa molto grave è che c'è una disparità molto forte fra gli impegni di spesa, che sono 960 milioni di euro, e l'impegno sui pagamenti, nel senso che io dico, in teoria il bilancio comunitario dei prossimi 7 anni è in totale 960 miliardi di euro, però io sono obbligato a pagare solo 908. Siamo ritrovati con alcuni programmi, tra i quali Erasmus, che non sono stati finanziati perché gli stati membri, nonostante si erano impegnati a fare questo pagamento, non hanno voluto rifornire le casse comunitarie. Era Monica Frassoni, intervistata da Valeria De Rosa. Oltre al test del DNA per verificare la presenza di carne di cavallo nei prodotti alimentari, l'UE, nella riunione d'emergenza che si è svolta ieri, ha deciso di compiere anche test sulla presenza dell'antinfiammatorio nocivo per la salute umana, il butene, trovato dalla FSA in diverse carcasse di cavalli usciti dai macelli inglesi. Il butene fa parte del piano d'azione UE e pagheremo per questi test, ha ricordato il portavoce UE Frédéric Vincent. La questione sarà nuovamente domani sul tavolo degli esperti UE. E infine, in Italia ci sono troppi genitori che ritengono ancora educativa la sculacciata, che invece dovrebbe essere proibita per legge. Così chiede una ONG britannica che ha denunciato il nostro paese al Consiglio d'Europa. Tra i dati presentati, uno studio pubblicato da Ipsos nel 2012, da cui risulta che tra il 3 e il 5% dei genitori intervistati punisce corporalmente i figli ogni giorno, il 18-20% qualche volta al mese, il 50% solo in circostanze eccezionali, mentre solo il 25% dei genitori italiani dichiara di non essere mai ricorso alle mani. Con questo abbiamo concluso. Gigi Donelli vi saluta, appuntamento con GR Europa domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.